La vita in un film di Franco D'Assisi. Scemo! Mancano circa 3 minuti alla fine in era azzurro. Guarda, vai Corino, che un giorno o l'altro ti do una bottigliette di amaro qua, a tracolla te la do. Hai capito? La devi finire con questi caccamarini tutto il giorno sulla capa mia. Metti in testa tuo padre. No, mio padre ce l'ha i capelli. Guarda che gli racconto tutte le fregnacce che hai fatto e sono mazzette, eh? E io ci dico che hai telefonato in Puglia in teleselezione e sono bastonate, eh? Va bene, allora io non dico niente, così siamo pari, la facciamo finita, eh? Certo, bene. Che hai preso proprio tutto da tuo padre, che è un nostro parente, no? Non è mica mio cognato. Sì. Irresistibile Lino Banfi in Al Bar dello Sport. Buonasera da Franco D'Assisi, questa è La Vita in un Film, il programma che ogni sera chiacchiera con voi sul tema dell'identificazione fra la gente e i film. Quanta della nostra vita è passata attraverso il cinema, attraverso i film, quanta ne abbiamo riconosciuta, ricordata, rivista. Oggi parliamo di un tema che è stato introdotto dalla clip che vi abbiamo presentato, che è quello della eterna contrapposizione fra Sud e Nord. Noi non andiamo al di là del confine, anzi forse un pochino ci andremo, ma ci accontentiamo di raccontare questa eterna contrapposizione in chiave italiana, quindi tra nord e sud dell'Italia, vissuta sempre attraverso la lente di ingrandimento del cinema, quello che il cinema ci ha raccontato, a volte con toni drammatici, a volte con toni scanzonati e di commedia, proprio come nei film appunto di Lino Banfi, che sarà un po' l'anfitrione, l'ospite d'onore di questa puntata della Vita in un Film. Anzi, io voglio già salutare Lino Banfi, che è in collegamento con noi. Buonasera Banfi. Buonasera. Grazie. Un piacere sentirvi tutti, ho sentito la mia voce, mi ha fatto ancora più piacere. Al Bar dello Sport, straordinario, queste chiamate in teleselezione, birichino, andava a fare di nascosto per la Puglia. Allora, Lino Banfi, lei ha simboleggiato per più di 30 anni, il pugliese fiero delle sue origini, attaccato alle sue radici, che porta in giro per l'Italia e ora, come dicevamo, anche per il mondo, perché lei è reduce o forse ancora completamente in pieno coinvolto da un successo straordinario che sta ottenendo in Germania, un film che si intitolerà, quando arriverà in Italia, Indovina chi sposa mia figlia, mi rifiuto di dirlo in tedesco perché non ci riesco, ed è un clamoroso successo programmato in 400 sale. Cosa deve secondo lei questo straordinario successo in Germania? Ma questo non lo so, perché pare che questa produzione grande tedesca, che la Constantin è una grande distribuzione e produzione cinematografica, mi facessero il filo, dicono loro, mi stavano inseguendo da circa un anno, perché questo nasce come libro scritto da un autore, si chiama Jan Weiler, ha scritto un libro che ha venduto fortunatamente per lui 1,5 milioni di copie, che si chiama Maria Im Schmidt, che significa Maria non gli piace. Esatto. Ed è la storia di un italiano che vive lì da 45 anni, che parla un suo tedesco, ma lo capiscono bene tutti, c'ha i figli tedeschi, la moglie tedesca, però non vuole migliorare il suo tedesco, dice se mi capite va bene così. Un italiano di questi tosti che parla sempre dell'Italia bene quando ci sono i vicini tedeschi e poi quando non ci sono dice noi siamo un paese indietro, questi sono più puntuali di noi. La solita storia del sud e del nord lì è fra i tedeschi che sono due popoli che stranamente si amano forse, ma certe volte non si stimano, e quando si stimano non si amano completamente, credo di aver capito io. Però ogni tedesco c'ha la casa in Italia, noi amiamo i tedeschi, io ho un figlio che si chiama Walter, però fra l'altro mi piace molto la loro puntualità, ci sono molte cose. Ci sono molti punti comunque di contatto, comunque, effettivamente. Allora, noi abbiamo... Fatto sta che io ho recitato il tedesco e non conosco una parola di tedesco, ho letto, leggevo le frasi per come si pronunciano, me le scrivevano con gli accenti strani, strani segnali che facevo io, segni sopra, geroglifici curiosi che solo io capivo. E insomma riuscivo a leggere, ecco l'esperienza di 120 film, senza far vedere che leggevo. Banfi, allora io sa che cosa faccio a questo punto? Le faccio sentire lei che parla in tedesco, perché abbiamo trovato proprio un breve passaggio audio del suo film. Sentiamo Lino Banfi in questo film. Wenn du magst den Tochter unglücklich, i film degli Uberal. Breve ma incisivo, Banfi, straordinario. Ma poi io leggevo dappertutto, non so se stavo in macchina, mi nascondevo i pezzi di carta sotto il cruscotto, vicino al vetro, retrovisore, cose. Tanto è che insomma l'importante è che noi facciamo una prova di una settimana, se non ci riesco, dico signori miei, io farò Banfi e voi mi doppiate, perché questa è una lingua strana, proprio non conosci nulla, è difficile la pronuncia, sono tutte consonanti. Alla fine la cosa bella qual è? Che il film è finito, l'ho fatto, si è fatto un'anteprima, ho avuto un successo incredibile al Festival di Monaco, adesso da stasera proprio esce, è uscito stasera in tutte le sale, in 400-500 sale, si preannuncia un grande successo, questi mi hanno già detto, torni qua che lei deve lavorare un'altra volta con noi. Adesso si trasferirà in Germania, Nino Banfi. Allora, io chiedo a Nino Banfi di stare un attimo qua con noi, ricordo il numero di telefono, perché ovviamente La vita in un film è un programma nel quale il pubblico deve fare la sua parte, 800 24 00 24, il numero verde di Radio 24 per intervenire, magari scambiare anche due parole con Nino Banfi e, come sempre, qui ci sono a disposizione tanti biglietti per andare al cinema. Al cinema arriverà anche questo film di Nino Banfi in Italia, che vedremo probabilmente nella prossima stagione cinematografica, però il Nino Banfi della pugliesità, diciamo così, ostentata nella commedia italiana, lo abbiamo sentito prima e lo sentiamo anche adesso, per esempio in un film che lo vedeva al fianco di Edvige Fenech, si intitolava Zucchero, miele e peperoncino, del film del 1980, un episodio vede Nino Banfi nei panni di questo Valerio Milanese di nome ma non di fatto perché è assolutamente pugliese, alle prese con questa giornalista molto sexy. Sentiamo il passaggio. Parlami del tuo primo omicidio. Quale omicidio, scusa? Ma dai, puoi parlare tranquillamente, tanto l'hai confessato in assise. Io ad assise? Entrasti al banco di Santo Spirito e facesti fuori a colpi di mitra il cassiere. Io? Poi fuggisti con 750 milioni. Cosa provavi in quel momento, mentre sparavi? Eccitazione, godimento? Parla, pugliese, parla! Parla, pugliese! Va bene, parliamo pugliese. Su soldite, insomma, che indossa su cade trascorso, la gente lì, su soldite, trovo un capo e che cosa stai dicendo? Hai detto parla pugliese? No. E beh, questa era Edvige Fenech che si trovava la sua, insomma, pamper focaccia, parla pugliese e Dino Banfi l'ha accontentato. 800 24 00 24, La vita in un film, qui in diretta su Radio 24. Nino Banfi, le è capitato mai di rivedere i suoi primi passi di ragazzo, magari di giovane attore in cerca di successo, fuori dalla Puglia natia, dentro qualche film della storia del cinema italiano? Intanto dammi del tu, poi... Lo farò d'ora in poi. Ti dico che in questo film tedesco sono doppi pugliesi, perché c'è anche Sergio Rubini che è bravissimo, con il quale non avevo mai lavorato e ci siamo incontrati per la prima volta in questo film, e mi auguro che questo incontro nostro continui a prosperare. Poi, per esempio, il film che avete citato prima, Al bar dello sport, è una cosa di questi giorni, perché tutti mi dicono per strada: ah Rino, speriamo che faccia il Super Enalotto, ti ricordi il film Al bar dello sport, che tutti pensavano che tu avessi vinto e volevano chi l'appartamento, che... allora pensa se succede oggi a me, dice ognuno di questi col biglietto in mano, che cosa c'è? Dico, ti ammazzano come minimo se non dai, più è grande la cifra più devi dare poi per forza se scoprono che sei tu, quindi c'è sempre dentro un film qualche cosa che riguarda la vita di tutti i giorni, gli stereotipi di tutti i giorni, di ogni persona. Certo, certo, e questo è quello proprio che cerchiamo di raccontare tutte le sere. La vita in un film. Endumacht torta unglücklich, i film di Uberal. Più o meno Nino Banfi in questa frase dice: se fai del male a mia figlia ti trovo pure in capo al mondo. La vita in un film, 800 24 00 24, parliamo di nord e sud, dell'eterna contrapposizione e di quali sono i film in cui abbiamo visto un pezzo di questa storia, magari identificandoci. Marco da Roma è già in collegamento con noi. Buonasera Marco. Pronto, buonasera. Buonasera, ci dica. Allora, saluto tutti, ringrazio, sono un po' emozionato. Allora, si parlava appunto di stereotipizzazione, io credo di ritrovarla molto in un film di Troisi, in cui praticamente lui era costretto ad ammettere il fatto che, essendo meridionale, era un emigrante. In realtà in un film che, fra l'altro, in questo momento, anche perché forse emozionato, non ricordo il titolo. Potrebbe essere Ricomincio da tre, ecco, a occhio e croce. e quindi si trovava a dover ammettere, quindi, questa contrapposizione tra nord e sud, lui che praticamente diceva semplicemente di fuggire dalle sue parti per questioni che non erano legate semplicemente al lavoro, ed erano in emigranti, quindi ritrovo in questa cosa e non so, ne parlo con voi. Beh no, mi sembra assolutamente... Dino Banfi, che è un comico, che è un maestro comico del italiano che porta appunto la comicità italiana nel mondo, e quindi... Insomma, è una bella soddisfazione. Lino Banfi, se sì. Ha sentito Marco da Roma. Allora Lino, Massimo Troisi, beh, è stato un grande esponente di questa meridionalità, no? Espressa. No, a me è successo veramente nella vita quando facevo Avan Spettacolo, io parliamo degli anni 50-55, e quando arrivavo nel nord, Verona, nella, quella zona lì, c'era scritto non si affittano camere ai meridionali. E allora io, che sono nativo di Andria, in provincia di Bari, avevo cancellato la N sulla carta d'identità, rischiando di andare pure in galera a quell'età, e era diventato Adria. Quindi... Per cui facevo, buongiorno, sei mica una stanza per me? E cercavo di parlare Veneto, perché se no non dormivo, che dovevo fare? Eri diventato un perfetto esponente del nord-est, fantastico. Allora ricordiamo a Marco da Roma che riceverà un cofanetto Wazoo 5 serate di grande cinema, perché è stato il primo ascoltatore che ha chiamato in questa puntata della Vita in un Film. Ricordo sempre anche il numero verde 800 24 00 24 per raccontarci se avete nel vostro percorso personale una contrapposizione nord-sud che avete appunto riconosciuto in qualche film. Noi siamo in collegamento con Lino Banfi e vogliamo ascoltare un'altra clip relativa appunto alla carriera di Lino Banfi e ai film interpretati da Lino Banfi, questa volta con Sabato, Domenica e Venerdì, un altro film a episodi, nel primo dei quali Lino Banfi è un impiegato che deve fare da guida a un ingegnere giapponese, sorprendentemente piacevole. Sentiamo. Uè, te pistola, ma cos'è che combini? Vedi semaforo verde, ti blocchi, sei matto? Scusi tanto, signore, lei c'ha ragione. Infatti il semaforo era verde. Ma siccome la mia fidanzetta, la mia topola, mette il giallo, mette il verde, ci siamo incasinati. Ma cos'è che dice questo? Ha detto che abbiamo ragione noi, caro signore, eh? Ah, sì, eh? Sì. Che vuole? No, non va la traduzione simultanea, questo si incazza, scusi signore. Allora, chi è che ha ragione? Ecco, è semplicissimo, io... Lei ci ha tamponato e chi tampona paga, eh? Ci sono almeno 173.000 lire di danno. Anche meno, lasci perdere. Che fa, paga? Sì. Intanto ti do un acconto, eh? 800 24 00 24 il numero verde per stare con noi qui alla Vita in un Film e raccontarci in questa contrapposizione nord-sud qual è il film che più vi ha fatto rivedere, in cui più vi riconoscete. Lino Banfi, in collegamento in diretta, nelle parole di tanti meridionali a Milano, a Torino, parlo degli anni 60 così, c'era da una parte sì la sofferenza per la lontananza dalla propria terra, magari anche per un'accoglienza come ha raccontato proprio Lino Banfi, non particolarmente calda, ma dall'altra c'era anche molta ammirazione per questa grandeur industriale di queste città, appunto Torino, Milano, che si vedevano allora. Oggi ti chiedo, Lino, il villaggio globale ha forse un po' privato di questo impatto emotivo il giovane che arriva per la prima volta in una città del nord? Beh, lo ha privato un po' perché è diventato tutto più breve, nel senso che è tutto più facile, i tempi sono diversi, però c'è sempre, credo, la meraviglia da parte di un giovane meridionale che vive in una città di provincia del sud e improvvisamente poi si trova a Milano, Torino per la prima volta. Credo che l'impatto sia sempre carino, bello, di grande meraviglia, soprattutto adesso che poi io ritengo che queste città che prima erano un po' tristerelle in quegli anni, Torino per esempio mi faceva tristezza negli anni 50, è diventata una città di una bellezza incredibile, sarà il fatto delle Olimpiadi che hanno migliorato molto la città, sarà che questi vecchi operai adesso non ci sono più e c'è gente integrata meglio, insomma la città è più bella. Quindi l'impatto credo che sarà più gioioso. Certo, più naturale. Ecco, Giovanni da Roma è in collegamento all'800 24 00 24. Giovanni, buonasera. Buonasera, con tanti complimenti a Lino Banfi, è un'emozione sentirlo alla radio, perché non è usuale, diciamo, fare questi tipi di collegamenti, perciò complimenti anche alla radio. Per me il nord e sud non esiste, siamo tutti uguali, tutti fratelli e sorelle, nord e sud del mondo addirittura, perciò per me non esistono le divisioni. E poi un'altra cosa, tanti complimenti a Lino Banfi, credo che tante volte le persone gli fanno, però li voglio fare anche io per tutto quello che fa in beneficenza, perché comunque tante volte magari si fa anche per, diciamo, per pubblicità, però spesso queste persone come Lino Banfi tutte le situazioni le fanno di chiaro, perché lo fanno col cuore, si vede quando una persona fa le cose col cuore, lui lo vedo chiaramente che tutto quello che fa in beneficenza lo fa con il cuore. E grazie. Poi niente, volevo dire tante belle cose, insomma, che la vita gli porti tutto quello che lei desidera, signor Lino Banfi, perché se lo merita, è una gran brava persona. Beh, grazie, grazie. Insomma. Che bravo ragazzo, che bravo, bravo ragazzo questo. Giovanni da Roma. Ha ragione, perché se no, se non avessi costruito questa palazzina mia di credibilità, che ho costruito bene, devo dire, con tutti i crismi, antisismica, con i mattoni forti, con la calcestruzzo, eccetera, oggi non sarei credibile come ambasciatore UNICEF dal 2000, quindi i complimenti di questo ragazzo mi fanno doppiamente piacere. Io vi devo lasciare perché si sta scaricando tutto qua, io sto in un posto dove prende o non prende il telefono. Beh, allora Lino Banfi, noi ti salutiamo, ti ringraziamo tanto per essere stato con noi qui alla Vita in un Grazie. Film, e adesso mi sembra che ti aspetta Robert De Niro, no? Beh sì, se fanno la seconda parte di questo film, cioè il secondo libro, pare che la storia di questo Antonio Marcipane, che sarei io, è che vince un concorso a premi, non so, con un viaggio in America, va a Los Angeles e si fissa che non vuol tornare in Germania se non conosce De Niro, e lo conosce poi alla fine, quindi mi auguro di fare questo colpaccio. Beh, allora, insomma, in bocca al lupo a Lino Banfi per tutte le sue attività e grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi, ciao. Ciao, e allora abbiamo salutato Lino Banfi, ci sono ancora pochi minuti di trasmissione, ma abbiamo ancora delle telefonate allo 800 24 00 24. Francesca da Bologna, buonasera Francesca. Buonasera a tutti, vi saluto e saluto anche se non c'è più in linea il signor Lino Banfi, che è veramente un bravissimo attore. Allora. Io ho chiamato per diciamo così, ricordare un film abbastanza recente di un paio d'anni fa che si chiama Giù al Nord. È un film comico, è un po' una parodia sul pregiudizio che si ha di luoghi non conosciuti, e in questo caso c'è il sud e il nord della Francia. Certo, certo, assolutamente, il film di Danny Boone è stato un successo, esatto. Tra l'altro clamoroso in Francia, anche da noi è andato abbastanza bene, sì. Pur raccontando una storia proprio tipicamente francese, però questo ci fa pensare, Francesca, che tutto sommato ognuno ha il suo sud e in Francia è il nord. Esatto, è proprio così. Niente, no, io lo paragonavo un po' per la mia esperienza, nel senso che un po' io vivo al nord, quindi non ho personalmente un'esperienza nella mia vita personale, ma quando sono turista e mi capita di andare proprio ad esempio in Francia, diciamo con gli italiani si sente questa modalità di essere che ti fa sentire, diciamo, che sei un po' del sud, non so se mi... Certo, certo, è tutto un concetto relativo, insomma, poi alla fine la storia è questa. Allora noi, mentre Francesca da Bologna, che riceverà due biglietti per il cinema, come anche l'ascoltatore precedente che ci ha chiamato da Roma, mi pare si chiamasse Giovanni, questo è il mio ricordo, ebbene, abbiamo recuperato, la nostra Valeria Coffaro ha recuperato una clip proprio di Giù al Nord, ascoltiamola. Una notizia buona e una cattiva. Licenziato. Peggio ancora. Che c'è peggio di licenziato? Sei trasferito al nord. Al nord? No. A Lione? Non a Lione, nord nord. È il nord. È arrivato a destinazione. Ah! Le si è rotta la mascella? Le fa male quando parla, no? Che? La sua mascella sta bene? No, non ho niente, va capuzza. Ah, le assicuro che si esprime in maniera molto, molto particolare. E questo era Giù al Nord, tutto un gioco anche sulle pronunce, un film molto divertente, disponibile tra l'altro anche in DVD. Ci arriva anche un SMS, mi sembra di Max da Udine, dice il film che secondo me è più rappresentativo nel contrasto nord-sud è Così parlò Bellavista, che poi è anche un libro straordinario. Mino da Milano ci dice un film di Brusati, Pane e cioccolato, lì c'era un italiano in Svizzera, l'avevamo già trovato anche in una puntata precedente, il film di Brusati. Noi abbiamo ancora un minutino e lo vogliamo passare lasciandovi con quello che è forse il momento più alto della comicità cinematografica italiana proprio su questo tema. Totò, Peppino e la mala femmina, il film di Camillo Mastrocinque del 1956. Grazie a Valeria Coffaro in redazione, grazie a Giacomo Spunta in regia. Appuntamento a domani qui alle 18 su Radio 24 per La vita in un film. Un saluto da Franco D'Assisti. Ma come si fa? Bisognerebbe trovare qualcuno, che so, per sapere l'indirizzo di questa Marisa Florian. Dove andiamo a quel militare là? A quello? A che sei pazzo? Quello deve essere un generale austriaco, non lo vedi? Va bene, siamo alleati. Siamo alleati? Già, è vero, siamo alleati. Siamo alleati. Andiamo. Scusi, scansati. Scusi, lei è di qua? Dica. È di qua? Sì.